un augurio che diventa preghiera. Questo evidentemente augurare è un fatto, augurare buon Natale, buone feste, buon compleanno, è una bella cosa, in realtà umana antica e precedente al cristianesimo, no? Però nel momento in cui noi crediamo al fatto che Dio si sia fatto carne, sia diventato uno di noi, sia venuto in mezzo a noi, tra di noi. Oggi nella messa leggevamo la profezia sull'Emmanuele, no? Dell'Antico Testamento e di Isaia. Emmanuele che significa Dio con noi, no? Dio con noi. Quindi, e forse gli antichi che leggevano questo, forse non riuscivano ad immaginarsi, no, che potesse essere proprio così, che Dio potesse scendere in mezzo a noi, no? Diventare uno di noi, prendere la nostra carne, essere visibile, diventare un bambino, essere toccabile, essere guardabile. E quindi farsi uomo in tutto e per tutto, no? Quindi, nel farsi uomo, il Signore assume tutto l'umano e lo redime, no? Quindi assume anche le cose belle degli uomini, le consuetudini, le leggi buone, le abitudini buone, tutte le virtù umane, no? Che sono in fondo state create da Lui, no? Il bene che noi percepiamo come tale è di creazione, cioè siamo stati creati con un orientamento al bene. E lungo la storia degli uomini, lungo le varie culture, diciamo, questo bene è stato perseguito e coltivato, pensato, sperimentato, educato, no? Da generazioni e generazioni. E fra queste cose buone c'è il fatto di fare gli auguri, cioè di desiderare il bene per gli altri, no? Cioè fare gli auguri è un caso particolare del caso grande dell'amore, no? Che è il desiderare il bene per te, no? Il fatto di dirti che è bene per me che tu esista, no? Però allo stesso tempo il desiderare che tu abbia tutto il bene possibile. Sapendo che nella vita il bene si mescola con il male, no? Le cose belle si mescolano con le cose che non sono tanto belle, che sono faticose, che sono. E allora l'augurio cristiano, l'augurio che conosce la vita di Cristo, che conosce la vita di Maria, diventa un augurio più profondo, cioè non è superficiale solo, o perlomeno non è solo il bene umano inteso come tale, ma è anche un bene più profondo che nella vita cristiana è un bene che prende dentro di sé anche ciò che umanamente viene considerato come male, come sofferenza, come privazione, come limite, che nella vita di Cristo e anche nella vita dei suoi genitori, no? Di Maria e di Giuseppe, nella vita della Sacra Famiglia che in questi giorni durante la messa stiamo leggendo, anche nei giorni del Natale leggiamo, cioè stiamo vivendo la novena del Natale e ieri nella messa leggevamo la storia di Zaccaria, l'annuncio a lui e oggi leggiamo l'annuncio a Maria e così domani leggeremo la visita di Elisabetta e per avvicinarci a Betlemme, no? E poi dopo nel tempo del Natale vedremo anche quello che accade dopo, la visita dei pastori e questo attraverso il Vangelo di San Luca. Ci siamo preparati nell'Avvento attraverso la figura di Giovanni il Battista, che è il precursore, colui che prepara la via del Signore, e adesso attraverso Maria soprattutto ci avviciniamo al momento sublime della nascita del Figlio di Dio, no? E allora ecco, dicevo, questa visione cristiana della vita ci permette di guardare con positività anche ciò che umanamente sembra negativo, no? E in effetti nella storia del Natale, quando noi leggiamo l'annuncio a Maria, è tutto splendido, è tutto bello, è tutto positivo. Però andando avanti, nella storia stessa di Maria, le cose si complicano un po', no? Già deve, nell'annuncio dell'angelo, è implicata questa rivelazione su Elisabetta, sua parente, no? Che nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Quindi Maria poi sente questo accenno a Elisabetta come un dovere di andarla a trovare. Probabilmente lo fa con tutta la spontanea volontà senza nessun problema, ma questo mette nella sua esistenza un dinamismo che va al di là del, non so, di quello che umanamente avrebbe potuto pensare. Ho un compito così importante di diventare la madre dell'Altissimo, di colui che sarà chiamato figlio di Dio, allora mi devo custodire, mi devo conservare bene, non devo fare viaggi pericolosi, no? Invece la logica del Signore è un'altra e Maria la comprende bene. Pensate che anche questo, e l'angelo si allontanò da lei, no? E l'angelo si allontanò da lei, e io ho colto proprio l'8 dicembre, no? Nell'Angelus che il Papa Francesco ha fatto, lui vede cosa che io non, cioè in parte avevo visto, ma non forse con questa forza. Cioè avevo colto che la Madonna poi rimane un po' da sola, diciamo così, no? Il Papa lo dice con più forza, dice, lo ricorda, ecco, vediamo, lo prendo da un po' più in là. Dice: oggi guardiamo, la bellezza della Madonna, nata e vissuta senza peccato, sempre docile e trasparente a Dio. Ciò non vuol dire che per lei la vita sia stata facile. No, stare con Dio non risolve magicamente i problemi. Questo è molto importante, eh? E saperlo. Voi mi direte: lo so per esperienza. È così, no? Infatti, il sorriso dice: è proprio così. Lo so per esperienza che stare con Dio non risolve magicamente i problemi. Un po' noi lo vorremmo, lo desidereremmo, siccome sappiamo che Dio è onnipotente, che quindi poi vediamo Gesù che fa miracoli, che quindi sana, guarisce, risolve le tempeste sul lago, risolve il problema del pane, anche se per quel giorno, no? E così anche nell'Antico Testamento il profeta Elia, che con la vedova di Sarepta di Sidone, ecco, quel poco olio, quella poca farina continua, non finisce mai, quindi riescono continuamente a mangiare anche in quel tempo di carestia. Ecco, quindi qualcosa di questo tipo nella vicinanza con Dio c'è, ma non sempre, non dovunque, non con tutti, non, ecco. E questo ci permette di far sì che il nostro incontro con te, Signore, sia libero, no? Sia puro, sia disinteressato, eh? Infatti, perché poi Gesù dice a quelli che, Vangelo di Giovanni, sesto capitolo, c'è la moltiplicazione dei pani, poi tutta la folla lo raggiunge addirittura il giorno dopo sull'altra riva, e lui dice: voi mi cercate perché io vi ho dato il pane, eh? Quindi il loro interesse era, come dire, sì, non andava al di là di quel beneficio che avevano ricevuto, e che però, insomma, non è tutto, Gesù si aspettava qualcosa di più, no? Quindi il Papa con la sua forza, con la sua concretezza, dice cose molto chiare e ci aiuta. Stare con Dio non risolve magicamente i problemi, sarebbe una dimensione magica, no? Sto con Dio, dunque tutto si risolve. Perché invece stare con Dio, in ultima analisi, andando a fondo di quella che è la volontà di Dio, il Signore ci vuole portare a così dentro al cuore della Trinità, così da essere identificati con suo figlio e da vivere la vita di suo figlio, da essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, che però vuol dire anche tutta la vicenda di Gesù, quindi anche l'essere ripudiato, l'essere non capito, fino all'essere messo sulla croce, no? E quella croce paradossalmente vince il male, che è il massimo male, vince il male, vince il peccato, è il massimo peccato e vince il peccato. Questa logica paradossale di Dio ci vuole inglobare tutti noi, figli di Dio, eh? Con la nostra libertà, evidentemente, lo ricorda la conclusione del Vangelo di oggi. L'angelo si allontanò da lei, diceva il Papa l'8 dicembre, era lo stesso Vangelo. Si allontanò, è un verbo forte. L'angelo lascia la Vergine sola in una situazione difficile. Quante volte noi, non lo so, forse poche, forse tante, qualche volta succede, no? Che ci lamentiamo un po' di essere lasciati soli, no? Chi pensa a me? Io penso sempre agli altri, mi dedico agli altri, però alla fine magari in alcuni momenti ci sentiamo soli pur essendo ben accompagnati a volte anche, no? A me colpiva in una meditazione, rileggendo dopo anni, una meditazione di San José María, che è nel libro Amici di Dio, si intitola Verso la Santità, è proprio una meditazione che lui fece in una certa circostanza e che anche registrarono, poi lui aggiustò un po'. E a un certo punto, parlando delle prove che il Signore permette che i suoi seguaci vivano, parlava anche della solitudine, no? Le incomprensioni, poi le malattie, eccetera, no? Le fatiche, la solitudine. Mi colpiva perché lui che predicava, in realtà, pensavo agli anni di Roma, viveva con tantissime persone, no? Decine e decine di persone. Per cui in effetti, forse, dico che non fosse mai solo fisicamente, ma insomma, eppure questa solitudine è una prova che può toccare anche chi è attorniato da persone, no? Sentirsi solo, magari c'è qualcosa che uno non può dire, oppure se la dice non viene capito, allora deve tenersela per sé, no? Allora ecco, sapere che Gesù Cristo ha sofferto la solitudine, che Maria è stata lasciata sola dall'angelo. Ci può aiutare? Gesù ha sofferto la solitudine quando è anche un po', non dico che si è lamentato, ma Gesù qualcosa si lamenta, perché lamentarsi è anche un fatto umano, non è. Ma ancora non capite, per esempio, dice ai discepoli, no? Anche San Paolo si lamenta, tutti mi hanno lasciato solo, solo Luca è con me, no? Ma non, cioè non venga, insomma, come dire, non gli si faccia una colpa, no? Siamo tutti pieni di limiti, anche i nostri fratelli nella fede, no? Che possono non accorgersi o non avere la forza, no? Di aiutarci nel momento opportuno, e noi stessi abbiamo fatto tante volte queste cose. Gesù dice: mi lascerete solo. Nell'ultima cena, no? Mi lascerete solo. Poi aggiunge, perfeziona, chiarisce, ma non sono solo perché il Padre è con me. Però poi il Vangelo dice tutti fuggirono, no? Tutti dicono no, non ti lasceremo solo. E Pietro dice morirò con te, no, quell'altro Tommaso, poi. E invece poi alla fine accade proprio così, no? Oppure quei tre che lui si porta vicino al Getsemani per avere compagnia in quel momento così difficile, è così troppo forte per loro, è sera, e hanno paura, no? Insomma, alla fine si addormentano, con una. Meccanismo che psicologico che San Luca mette in evidenza, no? E allora per noi sapere che anche Gesù ha vissuto quella prova, così come tante altre, no? Anche la Maria è stata lasciata sola dall'angelo e non si può dire che l'angelo sia cattivo, no? O che Dio sia cattivo perché fa così con lei. Evidentemente c'è tutta una provvidenza di Dio, una sapienza che permette a Maria di, anche questa solitudine, di dire adesso con chi mi confido di questa cosa grandissima che mi è accaduta, no? E pensa, fa 2 più 2 è. L'angelo mi ha parlato di Elisabetta, che ha avuto una cosa molto miracolosa anche lei. Lei forse mi può capire. Allora, vado ad aiutarla e allo stesso tempo con lei mi potrò confidare. Quindi questa solitudine dell'angelo, cioè, appunto è molto sapiente, perché Dio non vuole che noi viviamo ci possiamo confidare sempre con gli angeli, possiamo pregare sempre con Dio, però la percezione umana di qualcuno che ci ascolta, di una parola che ascoltiamo, di una carezza che riceviamo, questa possiamo averla qualche volta nell'orazione, altre volte non ce l'abbiamo. Allora, però questo ci porta a cercare l'affetto negli altri, no? Nei fratelli, nelle persone che sono vicine, nei familiari. Si allontanò, è un verbo forte. L'angelo lascia la Vergine sola in una situazione difficile. Lei conosceva in che modo particolare sarebbe diventata madre di Dio, lo aveva detto l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, ma l'angelo non l'aveva spiegato agli altri, solo a lei. E i problemi iniziarono subito. Pensiamo alla situazione irregolare secondo la legge, al tormento di San Giuseppe, ai piani di vita saltati, a che cosa avrebbe detto la gente. Ma Maria mette la fiducia in Dio davanti ai problemi. È lasciata dall'angelo, ma crede che con lei, in lei, è rimasto Dio. E si fida di Dio. È certa che col Signore, anche se in modo inatteso, tutto andrà bene. Anche se in modo inatteso, quindi non so come. A volte a noi costa molto non sapere come, non sapere quando, eh? Avere il futuro incerto, quando si risolverà questa cosa, come si risolverà. Ecco l'atteggiamento sapiente, dice il Papa, non vivere dipendendo dai problemi, finito uno se ne presenterà un altro, ma fidandosi di Dio e affidandosi ogni giorno a Lui. Eccomi è la parola. Eccomi è la preghiera. Chiediamo all'Immacolata la grazia di vivere così. È una bellissima preghiera, una bellissima, è un bellissimo proposito, no? Non dipendere dai problemi, no? Ma a dire eccomi. E in effetti il Natale vissuto dalla Sacra Famiglia, il primo Natale di Gesù, in effetti è stato così, no? È stato un po' costellato da imprevisti, da problemi. Il primo problema, se volete, appunto dopo questo viaggio da Elisabetta, che avrà avuto le sue quotidiane problematiche così in quei 3 mesi, ma che il Vangelo non cita, il Vangelo cita solo le cose più belle, il rapporto con Zaccaria che è muto, fa fatica a spiegarsi, solo con i gesti, con le tavolette, no? Oppure pensate a, o forse anche un, non so, adesso con tutto il rispetto per Zaccaria che è santo, ma magari forse era un po' depresso, no? Perché certo, avete mai provato voi a ricevere un angelo e a dirgli che non ha capito niente l'angelo e poi rimanere totalmente muti di fronte a tutta la folla? Insomma, è un bello shock, no? E allora non c'erano neanche così psicoterapeuti per poterlo tirare su. E quindi Maria si occupa anche di tirarlo su e ci riesce, eh? E ci riesce bene. Tant'è vero che poi anche Zaccaria, una delle prime cose che dice, no, è il Benedictus, no? Il benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato, adesso quel canto bellissimo che la Chiesa recita tutta, continua a recitare e penso che reciterà sempre nelle lodi del mattino, no? Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto, eccetera, no? Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra di morte, dirigere i nostri passi sulla via della pace, no? E quindi poi Maria torna e Giuseppe lo racconta invece il Vangelo di San Matteo, quel conflitto, no? Interiore, cosa faccio, no? Che secondo alcuni autori è perché non capisce bene che cos'è, secondo altri, nella storia della Chiesa, è invece proprio perché crede che quel bimbo venga da Dio, ma si sente inadeguato. E non chiamato da Dio per quello, no? Perché Dio non gli ha detto niente. E allora pensate che questi ebrei erano abituati a considerare che Dio non si può né vedere, se uno lo vede vuol dire che è morto, cioè una realtà così sacra, lui si vuole allontanare, no? E invece in quel sogno, in quella notte, il Signore lo rassicura e lo chiama, no? Bene, quindi poi cose belle tra Maria e Giuseppe in quei mesi, però poi ci si mette invece Cesare Augusto, niente meno, no? L'imperatore, no? Così lontano eppure influente anche nella loro vita, ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra, no? Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria, tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Quindi noi nel nostro piccolo, forse anche proprio nelle vicinanze del Natale, ci sono alcune incombenze di tipo, pensate al mondo del lavoro. Si chiude l'anno e quindi bisogna fare tutta una serie di adempimenti, no? Il mese di dicembre è un mese molto corto, poi è pure l'ultimo mese, quindi ci si mette anche questa, no? E poi c'è, bene, quindi poi le consuetudini sociali che anche sono molto belle, ma implicano lavoro, impegno, no? Allora, ecco, la Sacra Famiglia. Per obbedienza a questa legge civile e sotto sotto pensando forse che in questo modo loro stavano compiendo una volontà del Signore che il bambino nascesse a Betlemme, che era la città di Davide, infatti c'è una profezia, no? Che dice così, e allora vanno, anche se questo umanamente probabilmente gli costa un sacco, non gli piace per niente, no? Stavano meglio a Nazareth, a casa sua, a casa loro, no? Dove si sta meglio è a casa propria, no? Normalmente, no? Natale con i tuoi, eh? E, vabbè. Allora, loro devono andare e poi si trovano con questa. E di fatto poi si trovano con la povertà di non avere una casa, no? Io pensavo che effettivamente questo. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide, Però forse Giuseppe in quella notte in cui cercava un alloggio per Maria diceva, beh, a cosa mi serve essere il discendente di Davide, no? Per cui è solo un guaio, no? Perché devo venire qua a farmi registrare e non ho le ricchezze di mio padre Davide, né? Non ho un palazzo da re. E anzi, e poi magari aveva sparsi in quella città alcuni lontani parenti che però non sembra che gli abbiano, diciamo, consentito così un'ospitalità gradevole, no? Non c'era per loro posto, eh? Allora, in questo senso, quando noi nella vita ordinaria o nella vita straordinaria, cioè un po' eccezionale dei giorni di Natale, siamo un po' presi da molto lavoro, da molte incombenze, allora possiamo pensare a loro, no? Possiamo pensare a loro. Possiamo unirci alla famiglia di Nazareth e fare l'esperienza che penso che abbiano fatto Giuseppe e Maria nella nascita di Gesù, che quella nascita ha compensato tutti i sacrifici, no? Loro probabilmente anche in cuor loro, no? Questa, la presenza del bambino nel grembo di Maria, di questo figlio di Dio, no? Che stava prendendo la nostra natura umana dalla madre, li ha consolati, no? E poi finalmente quando nacque, no? Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Ecco, Giuseppe e Maria sono stati i primi a fare l'esperienza di vedere Dio. Dio con noi, l'Emanuele. Dio che si è fatto uomo, Dio che si è fatto carne. No? In principio era il Verbo, dice San Giovanni, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. Ecco. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Un'esperienza allo stesso tempo, diciamo, normale, che già nella normalità della nascita di un bambino c'è molta gioia, molta la felicità del fatto che è nato un uomo, poi tutta la tenerezza con cui i bimbi attraggono l'affetto dei genitori e degli altri, la spontanea, no, tenerezza, e in questo caso tutte queste cose belle umane sono moltiplicate dalla gioia di sapere che questo mistero così grande è compiuto. Certo, come dire, forse intuendo che è così grande questo mistero che avrebbero avuto bisogno di tutta la vita per capire qualcosa di più, e avevamo bisogno di tutta la storia della Chiesa per capire qualcosa di più di questo mistero dell'incarnazione. Però è vero che rispetto al mistero, l'altro grande mistero della nostra fede che noi contempliamo e celebriamo a Pasqua, della passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi della sua ascensione al cielo, cioè la salvezza che si compie, questo mistero del Natale, dell'incarnazione, della nascita del Figlio di Dio tocca il nostro cuore in modo particolare dicendoci: Dio è con te, Dio è vicino, Dio si è fatto un bambino, Dio vuole essere amato da te come siamo un bambino, Dio vuole essere aiutato da te come si aiuta un bambino. Cioè è tutto scombinato, quella sacralità del tempio. Maria è diventata il nuovo tempio e Giuseppe ha timore, cioè vuole allontanarsi perché si sentiva indegno, no? E invece la nascita del bambino Gesù, la chiamata di Dio nell'angelo e quell'esperienza che lui fa del bambino Gesù, il fatto di prenderlo in braccio, no? Cioè Maria che gli dà questo bambino in braccio per dire: tu sei padre. quello che fanno tutte le madri del mondo, del rendere padre il proprio sposo, qui è una realtà un po' diversa, perché sappiamo l'origine di questo bambino è divina, ma la volontà di Dio è che Giuseppe sia suo padre, che tu gli darai nome, tu gli darai il nome di Gesù, eh? E quindi Maria lo rende padre, no? Dandogli questo bambino in braccio, e lui quindi cambia naturalmente e soprannaturalmente il suo rapporto con Dio, cioè Dio è diventato suo figlio, Dio è diventato un bambino che lui deve coccolare, far dormire, no? Accudire, capite? Far giocare. Dio ci sta dicendo attraverso Maria, attraverso Giuseppe, attraverso la sua nascita, che vuole che il nostro rapporto con lui sia così, sia così. E allora, e voi dite, ma come faccio a rapportarmi con Dio così? Per esempio, una madre col bambino piccolo può mettersi nei panni di Maria e dire: Dio si è fatto così, come questo bambino, come questo mio figlio, no? Cioè, è stato così, ha avuto 4 anni e mezzo, ha avuto, no, 12 anni, ha avuto così. E cioè Dio. E poi desidera che ciascuno di noi in qualche modo entri dentro alla vita di Cristo, cominciando dal battesimo, poi andando avanti lungo tutta la vita, e quindi si divinizzi. Quindi è vero che in buona parte è vero che in quella creatura c'è Dio, c'è Gesù, no? In misure misteriosamente diverse a seconda delle situazioni. E quindi noi possiamo amare Dio negli altri, no? E poi nella nostra vita spirituale, nella nostra preghiera, comunque abbiamo questo modello, cioè possiamo parlare con te, Gesù, come con un figlio, cioè un figlio ci è nato, un figlio ci è dato, no? E rileggeremo nella liturgia dalla Bibbia in questi giorni, cioè ci è stato dato un figlio, cioè Dio si è fatto figlio. Figlio, infatti lui dice, si chiama il figlio dell'uomo, no? Secondo una delle antiche profezie del Testamento, del Primo Testamento. Possiamo parlare con Dio come con un figlio. E la risposta è assolutamente sì. Eh sì, è così. E possiamo provare Gesù in questi giorni, possiamo provare Maria in questi giorni. E Maria ci dice: ma certo, ma è quello che sto cercando di dirvi da 2000 anni, no? Oppure in tutti i Natali della vostra vita, ma anche attraverso le canzoni di Natale, no? Allora dai, ci proviamo, e però siccome insomma sappiamo di avere bisogno della tua grazia, contiamo sulla tua grazia, sull'aiuto di Maria, di Giuseppe, per trattare Dio, Gesù, come un figlio.